24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, le 7:20 minuti, forza, dai, cari italiani, se vi dovete affrettare al lavoro, soprattutto dai esponenti della segreteria del PD, che alle 7 c'è stata la convocazione, inizio 7:30, siete in ritardo, affrettatevi che Matteo Renzi vi aspetta. E dico a tutti gli italiani, forza, che tra poco è Natale, almeno magari vi riposate un po', qualche giorno, uno, due giorni, tre giorni. Bene, allora oggi parleremo di che cosa? Di quello che è successo e sta succedendo ancora con questa Italia un po' presa di soppiatto, in contropiede con queste manifestazioni. Grillo che dice ai poliziotti unitevi, non proteggete più i politici e state dalla parte nostra. Berlusconi che incontrerà, non si capisce bene chi, o comunque dice una delegazione di questo movimento 9 dicembre che vuole incontrare oggi alle 17. Insomma, parleremo di questa vicenda. Avremo ospite la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Paola Taverna. Avremo ospiti Ivan Scalfarotto del PD e anche altri ospiti alle 8:15, rappresentanti delle forze dell'ordine. Questo più tardi, ora la lettura dei giornali. È mercoledì 11 dicembre, allora andiamo con i titoli. Il Sole 24 Ore in apertura un'intervista al presidente di Confindustria, Squinzi, che dice le aziende non sono il bancomat dello Stato. Ripristinare la fiducia tra fisco e contribuenti, all'intervista di Nicoletta Picchio, che più avanti vedremo. L'apertura del Corriere invece napolitano, il voto non è vicino. Questo è il titolo dedicato alla politica. E poi ancora la vicenda dei forconi, anche se il movimento è identificato così, ma i forconi sono quelli della Sicilia e sono quelli che stanno facendo meno proteste, però è il movimento 9 dicembre, ma come esemplificazione viene identificata come il movimento dei forconi. Allora, la stampa, forconi, la protesta fa paura, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero, forconi, l'alto là del Viminale. Repubblica, Grillo ai poliziotti, ribellatevi. Il Fatto Quotidiano, assalti a negozi e aziende, anche Berlusconi con i forconi. Il Giornale, la rivolta pacifica, più forconi per tutti. Libero, città paralizzate, i forconi pungono la casta. Il Secolo XIX, due assist per i forconi, Berlusconi, l'incontro e Grillo agli agenti, non difendete più i politici. Mentre l'Unità mette in prima pagina Berlusconi e Grillo col forcone. Questi alcuni dei titoli di prima pagina, altri li vedremo più avanti. Io però voglio iniziare da una notizia di cronaca che è un po' passata sotto traccia e che riguarda un magistrato di Palermo, ne abbiamo parlato qui anche nei giorni scorsi, il magistrato Nino Di Matteo, che è colui che sta istruendo il processo a Totò Riina ed è il magistrato più minacciato da Riina, nel senso che alcune frasi intercettate da Riina in carcere nell'ora d'aria hanno fatto alzare assolutamente il livello di protezione per Nino Di Matteo, perché Riina più volte ha parlato di esplicitamente, pare in queste conversazioni in carcere, di voler compiere un attentato nei confronti di Matteo. Di Matteo che è atteso oggi a Milano per tre giorni di deposizione appunto del processo. Il mistero è: verrà oppure no? Secondo alcuni giornali non verrà. Di Matteo deve rinunciare alla trasferta a Milano, così titola il Fatto Quotidiano a pagina 15. Mentre il quotidiano Repubblica titola Riina, per Di Matteo un'esecuzione come nel 92, Salvo Palazzolo racconta su Repubblica pagina 18, dopo montagne di minacce e insulti ai PM, la settimana scorsa Totò Riina ha lanciato parole perentorie al suo compagno di ora d'aria, un boss della Sacra Corona Unita. Avrebbe detto Riina, organizziamola questa cosa, facciamola grossa e non ne parliamo più, perché questo Di Matteo non se ne va. Dobbiamo fare un'esecuzione come quando c'erano i militari a Palermo. Parole inquietanti registrate da una microspia che ai vertici delle procure distrettuali di Palermo e Caltanissetta sono suonate come un ordine del capo di Cosa Nostra, che non fa mistero di essere nostalgico della stagione 92. Addirittura, secondo il Corriere della Sera, a Di Matteo è stata prospettata la possibilità di muoversi con un blindato di quelli che vengono utilizzati in Afghanistan dai militari, un blindato Lince. Eccolo qua il titolo di pagina 25 del Corriere: il magistrato minacciato da Riina volevano darmi un blindato Lince. Un Lince, uno dei blindati usati dai soldati italiani in Afghanistan. Nino Di Matteo non l'aveva mai visto. Quando lunedì gliene hanno mostrato uno in fotografia, ha alzato e fatto ondeggiare l'indice dicendo: no, non se ne parla, non posso andare in giro per Palermo in un centro abitato con un carro armato, non chiedetemelo più. Un diniego cortese, un invito all'apparato antimafia perché si rafforzi la scorta con altri sistemi, pronto a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, cosciente di un'accelerazione dell'allarme che circonda questo pubblico ministero protagonista del processo Stato-mafia. Tutto intercettato dall'ennesima minaccia del gran capo dei corleonesi, l'ottuagenario Totò Riina. Ma certo, l'unica ipotesi è quella di limitare gli spostamenti, ma non certo di usare questo Lince, scrive il Corriere. Agghiaccianti riferimenti intercettati in carcere a Totò Riina per quel che riguarda il PM Di Matteo: tanto deve venire al processo, è tutto pronto, lo faremo in modo eclatante. Queste le frasi che hanno fatto scattare l'allarme ai massimi livelli, con il PM più esposto nella trincea antimafia, incerto se partecipare all'udienza di oggi. Ecco, quindi il Corriere della Sera dà ancora per possibile, ma incerta, la sua presenza. Ovviamente c'è su questo riserbo assoluto se partecipi oppure no, per motivi di ovvia sicurezza. Insomma, è una notizia che viene messa, non si sa perché, all'interno delle pagine dei giornali, un po' nascosta. Mi sembra una notizia che meritasse invece di essere raccontata. Come in prima pagina del Secolo XIX vi voglio raccontare ciò che Marco Menduni scrive riguardo le lobby del gioco d'azzardo e delle TV. Così le lobby di gioco d'azzardo e TV bloccano il divieto di pubblicità. È un'inchiesta che racconta quello che Menduni definisce il gran movimento di lobby intorno a Palazzo Madama, dunque al Senato, dove c'è l'odore di sudore di chi scalda i muscoli per dare battaglia. L'obiettivo è impallinare un emendamento passato alla Camera che vieta ogni tipo di pubblicità al gioco d'azzardo in TV e su altri mezzi di informazione. È un divieto totale proposto da un gruppo di parlamentari capitanati dal genovese Lorenzo Basso del PD, che ha coagulato nella battaglia antislot un corposo manipolo trasversale di colleghi, ma ora che arriva tutto al Senato c'è aria di burrasca. La guerra di logoramento da parte delle lobby per far cadere o almeno scolorire il divieto totale di pubblicità è già partita. Racconta il Secolo XIX che l'interesse è bifronte: da una parte ci sono gli operatori che hanno visto crescere grazie a campagne tambureggianti il successo del gioco sul computer, dall'altro chi la pubblicità la manda in onda e se la fa pagare, soprattutto in prima battuta Mediaset e Sky. Poi l'articolo continua a pagina 7, un'intera pagina: spot vietati per l'azzardo, la lobby all'attacco, l'alleanza tra i signori dei giochi e i network televisivi per non perdere un business milionario. È una battaglia in Senato sull'emendamento alla legge di stabilità, questo emendamento che vuole bloccare la pubblicità per slot e casinò online e sul quale, racconta il Secolo XIX, c'è appunto in atto una doppia azione sia delle lobby del gioco d'azzardo legalizzato sia delle TV, Mediaset, Sky, ma anche editori RCS, oltre agenzie concessionarie del settore, che ovviamente premono perché questo, la pubblicità, porta anche molta economia, molti soldi. Vi do il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. Non so, continuano i presidi? Chi siete? Cosa volete? Perché gli slogan che ho sentito, e li abbiamo avuto vari ospiti in questi giorni, è il tutti a casa, non ne possiamo più. Sì, ma e poi, cioè, dire tutti a casa è facile, è una frase, ma non si capisce bene che cosa ci sia di costruttivo in tutto questo. In tutto i giornali come la rappresentano? Beh, c'è chi raccoglie intanto l'invito del Ministero dell'Interno, Alfano, È il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera. Non tollereremo città in fiamme. Ieri, per la verità, un giorno dopo, insomma, da che è partita questa vicenda, ha raccontato, ha detto Alfano, non tollereremo appunto questa situazione di città in fiamme. Le situazioni peggiori sono state soprattutto a Torino e a Genova. Soprattutto La Stampa racconta a pagina 2 di come alcuni facinorosi abbiano preso di mira certamente le persone sbagliate, se mai c'è qualcuno da prendere di mira. Alcuni centri commerciali, alcuni commercianti sono stati obbligati, spranghe alla mano, di chiudere le serrande. C'è anche una foto di un negozio con un cartello a Torino chiuso sotto minaccia. Emanuela Minucci racconta, pagina 2 della Stampa, la vede questa serranda abbassata, segna una chiusura, ma non di un negozio, dello Stato di diritto. Urla di rabbia togliendosi il grembiule il titolare dell'enoteca, costretto a spegnere le luci del locale. Non è per paura, è per dignità, perché tanto stasera riapro, non mi faccio dare la linea da questi violenti da Curva Sud con cui non puoi fare uno straccio di ragionamento. Erano in 10, sono entrati tra i tavoli, mi hanno accerchiato, io pago le tasse, porca miseria, ho dei dipendenti, ma non hanno capito che sbagliano obiettivo? In tempo record la centrale dei vigili manda la polizia, ma intanto lui ha già chiuso. La scena della la luce che si spegne, si ripete e fa scendere il buio su centinaia di negozi a Torino. Insieme col senso di sicurezza, i commercianti vengono minacciati così: se apri ti spacco la faccia. E in certi casi il titolare viene preso di peso e costretto ad abbassare la saracinesca. Poi c'è il caso di una ragazza del McDonald's di Piazza Statuto che attorno alle 14, mentre friggeva le cipolle, si è trovata in mezzo a un film. Prima abbiamo sentito i pugni sulle vetrine, poi sono entrati coi passamontagna abbassati urlandoci che dovevamo chiudere. Ci hanno terrorizzati, abbiamo subito spento le friggitrici, abbiamo abbassato le serrande. Due ore dopo, un secondo raid, come l'hanno chiamato i negozianti della piazza. Chi aveva le serrande su non si salvava, ma la maggior parte delle insegne si era spenta in modo preventivo, perché mancano 15 giorni a Natale e alla crisi non vogliamo aggiungere i soldi di una nuova vetrina spaccata. Ma insomma, è anche questo che è successo a Torino? E come lo qualifichiamo questa cosa, se non una roba vergognosa e incivile? Sta di fatto che ci sono alcuni politici che ieri sono stati molto chiari. Primo Beppe Grillo, che ha inviato una lettera ai vertici delle forze dell'ordine a dire state dalla nostra parte, cioè sfruttando quei gesti di alcuni poliziotti che si sono tolti il casco, dicendo state con noi, state dalla nostra parte, vi chiedo di non proteggere più questa politica che ha portato l'Italia allo sfacelo, non scortarli con le loro macchine blu al supermercato, ma invece di unirvi alla protesta del popolo. Insomma, è proprio un soffiare sul fuoco di questa protesta. Così come anche Silvio Berlusconi, che oggi non si capisce bene chi incontrerà, ma incontrerà una delegazione alle 17 del cosiddetto Movimento dei Forconi. Il retroscena di Alberto D'Argenio e Carmelo Lopapa, a questo proposito, su Repubblica, in prima pagina, quella strana alleanza tra il comico e il cavaliere. Scrive Repubblica, la tentazione incendiaria dell'abbraccio finale con Grillo è la volta buona che mettiamo Letta e Alfano spalle al muro. Dobbiamo schierarci con quei disperati che li vogliono tutti a casa. Questa è la svolta nella strategia di Berlusconi. Versare altra benzina, soffiare sul braciere, cavalcare la protesta, scrive Repubblica, anzi di più. Il leader di Forza Italia non vuol cedere soprattutto a Grillo la copertura politica di quanto si sta muovendo nella pancia del paese, dal Piemonte alla Sicilia. E allora è questo il tentativo di avvicinarsi a Beppe Grillo, e per la seconda volta in pochi giorni Repubblica tira in ballo il professore Paolo Becchi, ideologo dei 5 Stelle, docente a Genova, ricevuto a Villa San Martino non più tardi di 2 settimane fa. Cioè, avete capito, secondo Repubblica Becchi è stato ricevuto da Berlusconi. Io e Grillo vogliamo la stessa cosa, far cadere questo governo. Queste le parole con quale il padrone di casa Berlusconi ha corteggiato l'insolito ospite Paolo Becchi, lasciando balenare in quell'occasione la possibilità che Forza Italia sostenga l'impeachment nei confronti del presidente Napolitano. E allora ecco perché Guido Ruotolo scrive sulla stampa: al Viminale preoccupato, al Ministero dell'Interno non si sa con chi parlare. Questa è la vicenda, secondo Libero il titolo è questo: Grillo aizza gli agenti. E tra l'altro Libero fa anche una pagina dedicata a Grillo dicendo: certo, è proprio un Masaniello, uno che vive, racconta Giacomo Amadori a pagina 14 di Libero, vive in una villa con 24 vani che risulta però accatastata come semplice villino al catasto di Genova, e dunque non una villa categoria A8 ma un villino A7. Grillo per la villa con piscina paga come per un appartamento. Questo è il titolo di Libero, e tra l'altro dice: la tenuta in Toscana vale lo stesso discorso. Anche la presidente della Camera Laura Boldrini, intervistata da Repubblica Liana Milella a pagina 7, dice: giusto ascoltare chi protesta, ma chi semina odio sbaglia. Raggiunta al telefono a Johannesburg, dove è per i funerali di Mandela, dice Laura Boldrini: Grillo dice alla polizia chi proteggere e chi no, la sua è un'interferenza, mi chiedo a quale titolo lo faccia. Tutto ciò fomenta solo rabbia e la difesa dei cittadini non è una sua esclusiva. Questo Laura Boldrini, che racconta anche: la protesta non deve essere ignorata, va ascoltata ed è dovere di chi ha responsabilità pubbliche dare risposte, ma quello che proprio non va fatto è seminare odio. Questa è la situazione un po' confusa, ecco, di quello che succede in Italia per quel che riguarda l'ordine pubblico. Un po' confusa anche sul fronte tasse. Oggi il Sole 24 Ore mette in prima pagina un'intervista al presidente di Confindustria Squinzi, che fa un appello accorato per un fisco più equo, altrimenti la crescita è impossibile. Saluto allora Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, eccoci qua. Buongiorno Alessandro. Questo dunque l'appello di Squinzi nell'intervista di Nicoletta Picchio, che avete scelto come apertura e pagina 3. E poi non solo questo, ovviamente. Sì, non solo questo. Beh, questo già guarda solo due numeri. Uno è una percentuale, 68%, oramai abbiamo quasi imparato a memoria il total tax rate, ma l'inglese non deve, come dire, allontanare dalla gravità del problema, cioè il complesso IVO, carico fiscale che grava sulle imprese è del 68% dei profitti, quindi è chiaro che, come si direbbe con un termine un po' antico italiano, il margine non è amplissimo. Certo. E tra l'altro c'è una grande complicazione tra l'altro, sì, delle norme fiscali. Infatti non solo i cittadini, cioè non solo noi tutti abbiamo problemi a capire se pagheremo o no l'IMU, anzi mi compiaccio, visto che hai parlato con cognizione di causa di categorie catastali a 8, a 9 e quant'altro. Questo mi fa piacere. Noto proprietario di ville io, quindi le conosco. Ecco, no, attenzione, perché se l'accatastamento è da abitazione di lusso paghi l'IMU adesso a lunedì prossimo. Quindi non, attenzione a quella categoria che è importante. L'altro numero invece fuori di celia: 120-130 miliardi stimati di evasione fiscale. È il dato che ha ribadito ieri Befera, e come dire, è un altro di quei dati che danneggiano tutti, perché poi ovviamente si introducono regole sempre più ferree che spesso scoraggiano o comunque complicano la vita delle persone corrette e chiaramente finiscono per premiare quasi paradossalmente il non rispettarle, chi non le rispetta. Ma oggi guarda, il giorno del quotidiano del diritto. Nuova iniziativa del Sole 24 Ore, partiamo con questo quotidiano elettronico, in gergo lo chiamano un verticale, cioè una selezione delle migliori, delle notizie più interessanti della giornata dal Sole 24 Ore, dalle riviste del gruppo 24 Ore, che offriamo per un mese in consultazione gratuita, quotidiano.diritto.ilsole24ore.com, trovate tutte le indicazioni, norme, tributi. Scusami, ho sbagliato, sì, un punto. Quotidianodiritto.ilsole24ore.com, ho messo un punto di troppo. Vabbè, ho messo un punto. No, è che coi punti, sai, oggi c'è anche questa vicenda della caduta del PIL che si è fermato. Io coi punti, le virgole, oggi sto facendo un po' di confusione. Insomma, dai numeri, Mauro Meazza. Do un po' i numeri. numeri. Ma sì, comunque Mauro, io ti ringrazio, ci ritroviamo domani ovviamente, e tutto, anche altre cose trovate sul Sole 24 Ore, per esempio l'appello che ha fatto Giorgio Napolitano, lo trovate un po' su tutti i giornali, ma racconta Dino Pesole, ed è questa la politica che voglio introdurre dopo il traffico, l'appello di Napolitano, il voto lontano, un napolitano presidente della Repubblica che racconta il Corriere, addirittura si è lasciato andare a uno sfogo più duro: basta dannate polemiche politiche, no? Il voto non è dietro l'angolo, che è un modo proprio per scongiurare tutto questo chiacchiericcio, questo dibattito politico di cui il Presidente della Repubblica ha detto gli italiani sono molto stanchi. E è esplicito il Fatto Quotidiano, più di tutti a pagina 4, il piano per rottamarli: Renzi pensa già alle urne, ai gruppi democratici propone legge elettorale entro maggio. Entro maggio, siamo nel corso della 32esima settimana decisiva per la riforma elettorale, volevo tra l'altro ricordare, come nel pieno della 32esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Comunque Wanda Marra sul Fatto Quotidiano racconta: Matteo Renzi viaggia in quinta, se serve metterà il turbo, ieri si è presentato a Ballarò e per registrare un'intervista nel programma di Floris, il gioco di squadra, se significa rimanere nelle sabbie mobili della politica romana, allora no, dice in TV. Questo l'ennesimo messaggio, il concetto è: reggerà questo patto che sono pronti a firmare alla tedesca Letta e Renzi. E poi l'altra questione più tutta interna al Partito Democratico, cioè la vittoria di Matteo Renzi ha spazzato via un po' le correnti, a parte la scelta del responsabile economico degli Civati e a parte alcune scelte vicine a Franceschini, la corrente spazzata via totalmente è quella di Cuperlo, il grande sconfitto, e quindi la corrente dalemiana. E la offerta che è stata fatta è quella di fare il presidente del Partito Democratico a Cuperlo, pressing su Cuperlo, ma io preferisco restare fuori. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 12. C'è anche un D'Alema che, dopo aver detto all'inizio noi non molliamo, forse visti i voti, visto che anche nella sua Foggia è stato sconfitto dove si era candidato a Foggia da Ivan Scalfarotto, che sarà il nostro ospite alle 8.30, 8.15, e beh, Renzi dice no a D'Alema, e allora D'Alema è un D'Alema che pare si faccia un po' da parte. D'Alema fuori dai giochi, pensino i giovani al partito. L'ex premier non sarà candidato neanche alle europee, così a pagina 9 della Stampa. Anche per il secolo XIX Marco Marozzi, l'amarezza di Massimo, lascio il campo ai giovani. E quindi così pare che Massimo D'Alema si faccia da parte. Pare, perché certamente politicamente l'uomo non è abituato, come dire, a cedere così facilmente. Voglio darvi una notizia giudiziaria che riguarda Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti, l'ennesima infinita vicenda del lodo Mondadori. Oggi il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella racconta questo a pagina 14. Lodo Mondadori, una nuova causa in arrivo. De Benedetti chiede altri 30 milioni a Berlusconi. È il nodo dei danni non patrimoniali. Insomma, la CIR di De Benedetti ha avviato contro la Fininvest di Berlusconi un'altra causa civile dopo i 400 e rotti milioni che Mondadori è stata costretta a pagare alla De Benedetti, alla CIR appunto. Un'altra causa civile da 30 milioni di euro nominali, in realtà circa saranno 90 milioni tra virgolette veri, che nasce da una coda della sentenza civile della Cassazione, laddove questa sentenza, respingendo l'undicesimo dei 15 motivi di impugnazione della difesa Fininvest, in settembre aveva fatto passare in giudicato anche la risarcibilità alla CIR di danni non patrimoniali, danni cioè come conseguenze della lesione del diritto a un giudizio reso da un giudice imparziale. Vabbè, sono parole molto tecniche dal punto di vista tecniche giuridiche, ma il concetto sostanziale è che appunto c'è una nuova causa in arrivo e De Benedetti è pronto a chiedere altri 30 milioni per danni non patrimoniali riconosciuti dalla sentenza di Cassazione a Silvio Berlusconi. Mentre un'altra notizia che mi ha molto colpito, è il quotidiano Il Manifesto, ma anche La Stampa, dedicano La Stampa addirittura due pagine a questa notizia, e la voglio segnalare. e la povertà assoluta in Italia per 1 milione di bambini. È un reportage, un rapporto di Save the Children. In un anno sono aumentati del 30% i bambini in povertà. Più di 1 milione di minori vivono in povertà assoluta, vuol dire 1 minore su 10, una cifra che corrisponde al 30% in più rispetto al 2012. Questo è il rapporto L'Italia sotto sopra di Save the Children. Potete trovare tutti i dettagli a pagina 12 e 13 della Stampa, ma anche a pagina 4 del Manifesto. Il titolo è 1 milione di bambini poveri. Siamo sempre sulla Stampa, ma siamo a un'altra situazione, quella della rubrica finale del momento, dell'articolo più inutile scovato sui giornali, la carta costa, ricordate? E sempre sulla Stampa ho piccola premessa: io non sopporto i programmi di cucina, proprio non trovo niente di appassionante in MasterChef. Avrò visto in quanti anni è che lo fanno? 5 anni, 6 anni, 7 anni, non lo so, 3 anni, non lo so neanche. Avrò visto 3 minuti messi insieme in 3 anni perché mia moglie mi ha costretto girando un po' i canali. Beh, allora immaginate oggi a vedere una pagina intera di Elena Lowenthal, giornalista della Stampa. Io, il brasato e mia figlia in fila per MasterChef. Elena Lowenthal racconta: tutto è cominciato in una di quelle grigie giornate in cui mi vien voglia di cambiare vita. Apro un bar a Cuba, entro in un convento tibetano e non ne esco più. Ho fatto di meglio. Ho compilato il modulo per le selezioni di MasterChef Italia, edizione 2013. Pochi e semplici passi e il gioco è fatto. E qui racconta le telefonate, le fibrillazioni, il racconto, le attese, mi convocano, una prima ma chi se ne frega, ma vai a MasterChef e stanne contenta, ma non scrivere una pagina sulla Stampa che la carta costa, cari italiani, costa.